piano. Di Enrico Ruggeri. Oggi voglio raccontarvi la storia di due fratelli, Caino e Abele della musica. Forse Caino e Caino, direi. Due persone molto diverse l'una dall'altra, gelosi, pieni di rabbia reciproca. E nella Bibbia Caino lo uccide Abele, invece in questa storia non muore nessuno. Anzi, forse si può dire che questa rabbia, questa ostilità che hanno sempre avuto uno nei confronti dell'altro, almeno in un certo periodo della loro carriera, è stata un formidabile motore. Gli ingredienti sono l'arroganza, le risse, concerti di grande successo, un modo di essere inglesi assolutamente unico. Insomma, oggi vi racconto la storia di Liam e Noel Gallagher da Manchester, in una parola gli Oasis. Due che sarebbero sicuramente passati alla storia perché hanno un talento musicale enorme. Loro ci hanno messo dentro anche dell'altro, però hanno portato le loro risse domestiche dalle mura di casa al palco. Sono arrivati al successo tra colpi di mazze da cricket, estintori lanciati e molte botte. Gli Oasis erano proprio come una cazzo di Ferrari, bella da vedere, bella da guidare e che ogni tanto finisce fuori controllo se si va troppo veloce. Eravamo solo due ragazzi delle case popolari, due fratelli, due pazzi. E questi sono Liam e Noel in un estratto di Supersonic, il film documentario bellissimo peraltro sugli Oasis. Entrambi sono riusciti a fare cose particolari, uniche, prendere quel rapporto di odietano, di tipico dei fratelli, di due fratelli adolescenti, e trasformarlo in energia, in musica. Liam non sarà il miglior cantante della storia, Noel non sarà il miglior chitarrista di sempre, ma insieme hanno creato una delle band di maggior successo degli anni 90, dimostrando anche che, insomma, essere dei grandi strumentisti va bene, ma soprattutto ci vogliono le idee. Una vera e propria Ferrari, come la definisce Liam, bella da vedere, da guidare, ma che può diventare un ordigno pericoloso se premi troppo l'acceleratore. Siamo nella periferia di Manchester, in una famiglia problematica, la madre che emigra dall'Irlanda negli anni 60 va a Manchester appunto con un unico punto di riferimento, un fidanzato, si chiama Thomas Gallagher, è un alcolizzato. I due si sposano a 9 mesi dal loro primo incontro, arrivano i primi due figli, Paul e Noel. Il padre li picchia entrambi e si accanisce in particolar modo su Noel. Liam arriva 5 anni dopo, è il più piccolo, è il ribelle, è l'unico della famiglia al quale il padre risparmia le botte. Liam e Noel non vanno d'accordo, non sono mai andati d'accordo, però hanno due cose in comune che li fanno sentire uniti, e l'odio per il padre e l'amore per il Manchester City. Tutte le domeniche vanno al Main Road, il vecchio stadio del Manchester City, a vedere la loro squadra del cuore, che peraltro, insomma, in quegli anni era proprio palesemente la seconda squadra di Manchester, quindi ancora più rabbia repressa. Noel, se non va allo stadio, si chiude in camera sua, suona la chitarra e fuma erba. Insomma, è il suo modo per avere meno rapporti possibile col padre. Sì, mio padre mi ammazzava di botte. Mi sono mai sentito costretto a parlarne o a scriverne. So che sono solo affari miei. Non puoi lasciare che questo ti condizioni in alcun modo, perché altrimenti ti porterai questo peso per tutta la vita. Non direi che fossi segnato, ma è la nostra infanzia che ci fa diventare chi siamo. Non puoi pensarci troppo a fondo perché ti farebbe impazzire. Credo che mi abbia aiutato a farmi ritirare nel mio mondo, ed è lì che ho imparato a suonare la chitarra. Credo che, in un certo senso, mio padre mi abbia inculcato il talento a suon di botte. L'inferno dura fino a che la madre Peggy non decide di fare le valigie e di abbandonare quel marito violento. Una notte prende coraggio, carica i figli in macchina e si trasferisce in un nuovo appartamento, sempre nella periferia di Manchester. È una casa molto piccola, soprattutto per 4 persone, però a loro sembra il paradiso. Liam ha la passione per i Beatles, ha una bella voce, entra come cantante in un gruppo di amici di scuola, si chiamano The Rain, sono composti dai futuri membri degli Oasis, a eccezione di Noel. La prima cosa che fa Liam è cambiare il nome della band. E un giorno è in camera sua, vede un poster degli Spiral Carpets, che sono un gruppo di Manchester, che promuove un concerto nel locale Oasis Swindon. Sposta lo sguardo, nota il biglietto di un servizio taxi che si chiama Oasis. Se non bastassero queste coincidenze, per terra c'è il menù di un kebab baro chiamato Oasis. Insomma, la leggenda narra che questo nome gli viene suggerito dal destino, e quindi propone questo nome agli altri. Nascono ufficialmente loro gli Oasis. Noel nel frattempo fa parte proprio degli Spiral Carpets, fa il roadie, una sorta di tecnico, di facchino, segue la band ovunque. Poi nel 91 viene licenziato, torna a Manchester e va a assistere a una esibizione degli Oasis, la band del fratello. È un locale per gruppi emergenti. La storia comincia così. Noel è un buon chitarrista, ha un grande talento, sensibilità per la musica, potrebbe forse aspirare a qualcosa di più degli Oasis, di questo gruppo di ragazzini, ma Liam lo vuole nel gruppo, insiste, lo assilla. Noel ricorda così quel momento. La prima cosa che mi hanno chiesto è stata: che ne pensi? E io gli ho detto: è fantastico. E loro: stavamo pensando, ti va di farci da manager? E io: ma di cosa parlate? No! E loro: perché tu conosci un sacco di gente, roba così. Io gli dico che avremmo potuto trovare un manager migliore di me. Poi, 2 settimane dopo, Liam mi ha detto: vieni a provare con noi. La seconda volta che sono andato, Liam disse: suona quella canzone che suona in camera tua, forza! Siamo nel 92. Noel fino a quel momento ha suonato solo per se stesso, per divertirsi. Quel giorno però ci sono gli Oasis ad ascoltarlo. Si siede, imbraccia la chitarra e strimpella Live Forever. Gli altri rimangono colpiti e la melodia è bella, è innovativa, è efficace. Liam capisce che è la canzone giusta e quel giorno gli Oasis la mettono assieme, quella canzone. Ci sono Paul Arthurs, detto Bonehead, che accompagna Noel alla chitarra, poi c'è Paul McGigan, detto Gisby, al basso, e poi c'è Tony McCarroll alla batteria e naturalmente il cantante, che è Liam. Alla fine della canzone tutti si complimentano con Noel, tranne Liam, che gli dà solo una pacca sulla spalla. Sembra poca cosa, una pacca sulla spalla, però tra i due fratelli i gesti d'affetto sono veramente molto rari, e i sentimenti sono sempre contrastanti, c'è sempre una gelosia reciproca di fondo da quando erano bambini, una cosa piuttosto comune quando due fratelli si contendono l'affetto della madre. Prima della nascita di Liam, Noel era il fratello minore, e poi arriva Liam che ruba tutte le attenzioni. Insomma, questa è una storia di milioni di famiglie. Peraltro Liam ha anche questa prerogativa, riesce a sfuggire inspiegabilmente alle botte del padre. Liam è sempre stato più caloroso di me, aveva una camminata migliore e i vestiti gli stavano meglio. Era più alto, aveva un taglio migliore ed era più divertente. Chiaramente a Liam sarebbe piaciuto avere il mio talento come cantautore. E non passa giorno in cui non desideri poter indossare un parka bene come lui. Non dobbiamo darci delle pacche sulle spalle e dire: oh, sei grande. Io e lui siamo telepatici, non so se intendi. Comunque, Live Forever diventa una canzone degli Oasis e ne arriveranno molte altre. E loro in quel momento sono ancora degli sconosciuti, nessuno sta scrivendo di loro, però Liam è molto determinato e convinto che prima o poi succederà qualcosa. Darebbe l'anima lui per avere un contratto serio. Noel la prende con più filosofia, non ha lo stesso fuoco, lo stesso ardore del fratello, però anche lui comincia a amare questa band, comincia ad andare tutti i giorni alle prove, anche perché in casa Gallagher i soldi stanno scarseggiando. Il padre ovviamente non passa una sterlina, la madre e i due fratelli vogliono contribuire al bilancio familiare così traballante. I soldi mancano, i litigi no. Una sera del 91 i due sono alle prove, a impegno terminato. Noel torna a casa, Liam rimane fuori con gli altri della band a bere qualcosa. Il qualcosa diventa diversi litri di birra e Liam arriva a casa, ha diciamo un bisogno impellente post beer, entra in casa, corre lungo il corridoio, apre quella che pensa sia la porta del bagno e fa la pipì, si libera copiosamente. La mattina dopo succede il finimondo, perché Liam non aveva aperto la porta del bagno ma quella della camera di Noel, e non si saprà mai quanto ci fosse di intenzionale in questo gesto. Sta di fatto che Liam ha fatto la pipì sul fratello e sullo stereo del fratello. Insomma, litigano tutti i giorni, sembrano fatti esattamente per non andare d'accordo. Sono cresciuti assieme, però sono uno l'opposto dell'altro. Noel cerca di spiegare questa ostilità atavica a modo suo. Conosco mio fratello meglio di chiunque altro. Liam è come un cane, io come un gatto. I gatti sono creature indipendenti, non gli importa di niente, sono davvero dei bastardi. I cani sono invece tipo, gioca con me, dai, gioca con me, ti prego, tirami la palla, perché gli serve compagnia. È talmente elementare, non puoi cambiare come sei fatto. Gli Oasis si tassano, 25 sterline a testa, c'è da affittare un furgone, andare a Glasgow, tornare la mattina dopo e nel frattempo andare a Glasgow e suonare, cioè aprire il concerto delle Sister Lovers, che erano una band di relativo successo in quel momento. Durante il viaggio si fuma, si beve, c'è una bella aria positiva, poi però arrivano e si rendono conto che non sono in programma, perché le Sister Lovers non avevano avvisato gli organizzatori. A questo punto le ragazze si impongono o aprono il concerto gli Oasis o non suonano neanche loro, e così suonano quattro canzoni, le uniche che hanno in repertorio, e tra il pubblico c'è il fidanzato di una delle Sister Lovers, Alan McGee si chiama, è il capo della Creation Record, una delle etichette più in voga nel periodo. Credo davvero che certe cose debbano accadere per destino. Ero lì con mia sorella, Susan. Mi ha subito detto, dovresti scritturarli. E io, sentiamo la seconda canzone. E poi ho pensato, li scritturerò. Alla terza canzone ho detto, lo farò di certo. Così sono andato da Noel e gli ho detto, volete un contratto discografico? Sono Alan McGee, della Creation Records. Lui mi ha subito riconosciuto e ovviamente non ci ha pensato due volte. E la prima persona che i ragazzi avvertono è la madre, Peggy, perché forse una delle poche cose in comune, oltre al Manchester City e alla musica, è l'amore per una donna che ha fatto molto nella sua vita per questi ragazzi, li ha salvati dalle violenze del padre, li ha cresciuti con uno stipendio misero, li ha sostenuti, adesso è il momento di fare qualcosa per lei. Un contratto discografico vuol dire soldi da portare a casa per pagare le bollette, i vestiti, all'inizio ovviamente il denaro non è molto, ma la soddisfazione maggiore per Peggy è vedere questi due ragazzi riuscire a fare qualcosa assieme a parte litigare. Alan McGee ci crede negli Oasis, ci crede da subito, da quella sera a Glasgow in cui li ha visti per la prima volta. Loro però hanno un po' di problemi. Intanto c'è questo rapporto tra i due fratelli che è sempre in bilico. Poi c'è un'altra questione delicata che riguarda Tony McCarroll, il batterista. Non è più il momento di suonare in un garage le cover dei Beatles. Ora si va in sala di registrazione, c'è un contratto discografico. Bisogna fare il primo album e il batterista non sta al passo. Questa è una cosa che succede a tutte le band del mondo. Amici che suonano, si va in studio per il primo disco e c'è uno che non è in grado. È sempre un momento doloroso che tutte le band attraversano. Presto sarebbe stato chiaro perché non stava funzionando. È che il nostro batterista non era costante con il tempo da una battuta alla successiva. Figuriamoci da un giorno all'altro. Eravamo bloccati. Non avevamo registrato niente. I problemi in studio si fanno vedere subito. Mark Coyle, che produce il primo album degli Oasis, fa notare il problema agli altri, non lo dice a lui. La risposta è categorica: il batterista non si cambia, sono un gruppo di amici prima ancora di una band che deve pubblicare un disco. In realtà Noel non è completamente d'accordo, lui è un po' più freddo, più lucido, si sente il leader, è lui che scrive le canzoni, è più grande degli altri, però capisce che opporsi alla decisione della band metterebbe già la parola fine a questa esperienza comune, e poi sarebbe un altro motivo per litigare con Liam, insomma, per il momento soprassiede. Come tutte le band che entrano in sala di registrazione, ci si accorge che è molto diverso fare un disco da come lo hai immaginato. Si sta ore a lavorare in studio, si curano dei dettagli. Un giorno Liam propone di andare a comprare da mangiare per staccare, diciamo, la spina per qualche minuto. Vanno al ristorante cinese in fondo alla strada. Noel rimane in studio e invece di registrare le tracce che hanno in repertorio, lavora su un riff che ha in mente da un po'. Comincia a suonarlo, a dargli il ritmo giusto e gli si accende la lampadina, diciamo. Insomma, mentre gli altri sono a pranzo, lui sta scrivendo Supersonic, che diventerà il brano più importante dell'album. Quando gli altri tornano, si ripete quella scena ormai abituale, quella scena che avvenne quando iniziò tutto, tutti increduli, complimenti, la solita pacca sulla spalla da parte di Liam. Noel è il genio, è la mente della band, è il motore, ha scritto uno dei pezzi che saranno tra i più ascoltati degli anni 90 e l'ha scritto in mezz'ora. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di due fratelli di Manchester, due fratelli arroganti, rissosi, sempre in lite tra di loro, però due geni, due che il destino ha voluto accoppiare non solo nella stessa famiglia, ma nella stessa band, gli Oasis, Liam e Noel Gallagher, due ragazzi delle case popolari che da un giorno all'altro devono gestire un successo planetario. Li abbiamo lasciati in quello studio di registrazione di Manchester nel quale Noel continua a scrivere, a comporre, mentre gli altri vanno a pranzare, e tra le canzoni che scrive c'è Supersonic, che sarà la hit di traino per tutto il primo disco. Gli Oasis registrano Definitely Maybe nel 94, il loro primo album, vende milioni di copie, 7 dischi di platino, sfonda anche negli Stati Uniti, sdogana nel mondo il Britpop. Ci saranno anche i Blur, i Pulp e qualche altra band, però è fuori dubbio che gli Oasis sono i primi a rompere il ghiaccio e a imporre un genere che avrà anche altre stelle. E nel frattempo, insomma, i due da sconosciuti diventano noti in tutto il mondo. E non sono pronti, nessuno li ha educati ai rapporti con i media, alle interviste, sono senza filtri, e si esprimono con parolacce, mostrano il loro egocentrismo mostruoso, la loro arroganza, affrontano argomenti scomodi, parlano per esempio tranquillamente di droga. Siamo una band, ci piace il calcio, ci piacciono le droghe, conoscere le donne e tutto il resto. Non negheremo niente, perché dovremmo? Se vogliono scriverne, lo facciano. La nostra musica supererà la prova del tempo. È un dato di fatto. Tutte queste voci su di noi, che siamo così, cos'ha, eccolà, spariranno nel giro di un anno. Tutti se ne dimenticheranno. I nostri dischi rimarranno nei negozi per sempre. E forse queste caratteristiche li aiutano in qualche modo, la loro immagine diventa quella dei bad boy, c'è anche qualche bell'arresto per rissa che arriva sulle prime pagine dei giornali e questo aiuta. È un esempio, è un episodio che risale a qualche mese prima della pubblicazione del primo disco. Siamo nel febbraio del 94, gli Oasis vanno a Amsterdam, è la loro prima grande uscita, sono la band di supporto dei Verve, devono prendere un furgone e imbarcarsi su un traghetto. Liam compra della droga da portare in viaggio, spende centinaia di sterline. A bordo della nave però c'è un gruppo di tifosi del West Ham che, insomma, quando sono in trasferta gli inglesi si lasciano andare, stanno andando a Amsterdam per il fine settimana, sono tutti su di giri, i tifosi e gli Oasis, e in un attimo arrivano le risse sul ponte. Liam ci si tuffa dentro, sentiamo Mark Coyle, che è il tecnico del suono degli Oasis. Liam era emozionato all'idea di creare caos. Così va e si unisce alle risse. Lo vedevamo correre attraverso le finestre lungo il ponte. Si divertiva un sacco. Sembrava rincorrere le foglie nel cortile della scuola. Quando lo rivedo sta ancora correndo, ma c'è un poliziotto che lo insegue. tutti i componenti degli Oasis vengono messi in manette, non arrivano ad Amsterdam, vengono rispediti a Manchester con l'occasione del concerto con i Verve buttata al vento. Sembra un disastro totale, ma non per il loro produttore Alan McGee. Quando Noel lo chiama per avvertirlo di quello che è successo, la prima cosa che lui dice è: fantastico, perfetto. E ha ragione, McGee è quello che ha capito che non può esserci un battesimo migliore per i fratelli Gallagher di una notte in carcere per rissa. Tutti i giornali ne parlano. 5 mesi dopo uscirà il loro album, già preceduti da questa fama. Insomma, Malcolm McLaren fa scuola. Così i nuovi Bad Boys della musica inglese sono pronti per il loro primo tour negli Stati Uniti, dove portano il loro primo album. Sono sulla cresta dell'onda, sono su quella Ferrari così bella da vedere, così bella da guidare, ma che sta cominciando a andare troppo veloce e forse non terrà la strada, perché Liam e Noel non la sanno guidare molto bene. Siamo a Los Angeles, i ragazzi stanno suonando, Liam tra una canzone e l'altra va dietro a uno degli amplificatori e si fa una bella striscia di anfetamina. E chi sono io per giudicarli? È fuori controllo, comincia un battibecco con Noel, c'è tensione, Liam gli lancia il tamburello, lo colpisce alla spalla, niente di grave, ma tanto basta a Noel per andare fuori di testa. Al termine del concerto prende, va via e è deciso a lasciare la band. In realtà deve solo sbollire. Noel utilizzerà questo momento di isolamento per scrivere il secondo album degli Oasis, il mitico What's the Story Morning Glory, il loro disco di maggior successo. E il ritorno di Noel passa per una pratica che ormai è, come dire, è nell'agenda degli Oasis da sempre: cacciare Tony McCarroll, il batterista, e ovviamente se ne occuperà Noel. Credo che Noel avesse cambiato idea e non gli andasse più bene. Non è in grado di fare le prossime canzoni, oppure non voglio che le faccia lui. Disse qualcosa del genere. Mi dispiace per lui, ma è così che andò. E in questo album ci sono dei capolavori della musica del Novecento, c'è Don't Look Back in Anger, c'è Champagne Supernova, c'è Some Might Say, e gli Oasis stanno per registrare delle grandi canzoni, e non possono permettersi un batterista che non è all'altezza della situazione. Alla fine Noel deve prendere questa decisione, Liam deve abbozzare perché è consapevole che certe decisioni vanno prese e Noel è uno che i calci di rigore li va a tirare. What's the Story Morning Glory è il terzo album più venduto di sempre nel Regno Unito. Dopo il Greatest Hits dei Queen e Sgt. Pepper's dei Beatles c'è questo album. Basta questo per mettere gli Oasis nell'Olimpo. E naturalmente la realizzazione del lavoro passa in maniera turbolenta durante le sessioni che vengono fatta ai Rockfield Studios in Galles. Quando Noel registra la chitarra, Liam lascia l'edificio, se ne va al pub tutte le volte. E un giorno Liam porta negli studi un gruppo di persone che aveva appena conosciuto al pub, proprio mentre Noel sta registrando. Uno degli imbucati, immagino alticcio, comincia a usare l'estintore, spara il getto su una delle chitarre di Noel e parte una delle solite risse tra i due fratelli che cominciano a picchiarsi con tutto quello che si ritrovano tra le mani. Ricordo di averlo colpito in testa con una mazza da cricket. Ricordo di essere saltato fuori dalla finestra e di essere partito in macchina con Whitney. Liam è apparso dal nulla e ha tirato un bidone della spazzatura sopra la macchina. Conoscevo Alan, il nuovo batterista, da solo 2 settimane e lui faceva: ma non può finire tutto, mi sono appena unito a voi. E noi: no, queste cose succederanno in continuazione. E lui: ma diavolo, ma che razza di band è questa? E in un modo o nell'altro finiscono le registrazioni di What's the Story Morning Glory, che consegnano alla storia questo album che regalerà una vecchiaia serena alla madre. La madre alla fine, insomma, è il vero collante, e quando parlano della madre loro si illuminano gli occhi. Liam diventa docile e gentile, e perfino Noel lascia trasparire qualcosa dei sentimenti dell'interno del suo cuore, il Noel che è sempre nascosto dietro a quel broncio inespressivo. Adesso i due ragazzi sono ricchi, dischi, hanno lanciato uno dei dischi più venduti di sempre, hanno tutto ma non si accontentano. Nell'agosto del 96, un anno dopo la pubblicazione dell'album, gli Oasis ricevono la proposta di suonare su uno dei palchi più importanti della storia della musica, è il palco che ha consacrato i più grandi, Rolling Stones, Pink Floyd, Genesis, Led Zeppelin, i Queen con Freddie Mercury, è il palco di Knebworth per le due date degli Oasis, il 10 e l'11 agosto, il 4% della popolazione inglese richiede il biglietto, 2 milioni di persone vorrebbero andare a vederlo quel concerto, ci stanno 250.000 spettatori e quella sarà la cifra che loro faranno in 3 anni, sono passati dal loro garage al tutto esaurito dell'Olimpo di Knebworth. Il falco e il gabbiano. Ritroviamo gli Oasis sul palco di Knebworth, in uno dei templi della musica mondiale di sempre. Hanno davanti 250.000 persone, hanno litigato, si sono picchiati, però sono ancora assieme. C'è un feeling misterioso che solo loro possono capire, che in questo momento questo feeling è più forte che mai. Sul palco, quando lui si gira verso di me e io verso di lui e ci guardiamo, succede qualcosa che va oltre alla musica. Solo io e lui capiremo mai questa cosa. Per noi è tutto lì. Loro sono gli stessi dell'inizio, di quando Noel portava un capolavoro in sala prove e Liam gli dava una pacca sulla spalla, o di quando Liam bagnava la chitarra del fratello con un estintore e si beccava un colpo di mazza da cricket in faccia. E dopo il concerto di Knebworth, i due fratelli si prendono una vacanza, vanno nella villa di Mick Jagger a Mustique nei Caraibi e vai lì in quella villa dove, non so, passi, fai colazione con Johnny Depp, con Kate Moss, sono delle star internazionali, e lui, Noel, in pochi giorni scrive le canzoni del terzo album, mentre il fratello Liam si abbronza e si ubriaca. Quando tornano a Londra però le cose non vanno tutte per il verso giusto. Iniziano a registrare il terzo disco negli studi di Abbey Road. Gli Oasis hanno sempre avuto un affetto, una venerazione per i Beatles, in particolare per John Lennon. Owen Morris, che è il loro nuovo produttore, li trasferisce in uno studio alla periferia di Londra, lontani dai riflettori, e però anche lì la cocaina circola a palate, il volume è sempre a livelli assurdi, loro sono sempre in continua tensione e la cocaina continuano a usarla. Quando Noel registra, Liam va a pippare in un'altra stanza, praticamente fanno vita e ognuno per se stesso. Noel comincia a essere stanco, ecco il ricordo di un redattore del Sun, Dominic Mohan. Dopo che furono trasferiti nei Ridge Farm Studios, nel Surrey, avevamo pochissimi contatti con gli Oasis. Dopo l'arresto di Liam, si erano isolati completamente, erano diventati una corte medievale. Non so se ci fossero degli spacciatori, ma c'erano continuamente personaggi sospetti là intorno. Il nuovo album si chiama Be Here Now e non viene accolto molto bene dalla critica, viene definito pomposo, iperprodotto. In realtà c'erano forse troppe chitarre, Noel era nel momento nel quale voleva mettere quello che noi chiamiamo il muro di chitarre, però magari sovrapponeva 10 volte la stessa chitarra per avere un volume più palpabile, ma non sempre la cosa funziona. Peraltro mantenere il livello di What's the Story Morning Glory è molto difficile, e nel frattempo nel 97 la concorrenza è agguerrita, stanno uscendo anche dischi come OK Computer dei Radiohead o un altro album dei Verve, e insomma è più difficile essere al primo posto. E a peggiorare la situazione ci sono altri problemi con la legge, l'ennesimo arresto di Liam e poi il batterista dei primi tempi, Mac Carroll, che fa causa al gruppo, e poi ci sono delle interviste di Noel che non vanno giù all'opinione pubblica. Insomma, hanno toccato velocemente il cielo e stanno ricadendo al suolo altrettanto velocemente. Quale dei tre award è più importante per voi? Quello vinto con il voto dei fan è importante. Ogni cosa votata dai fan è speciale. Qualsiasi cosa votata da idioti maiali aziendalisti per noi non conta assolutamente niente. A proposito di maiali aziendalisti, la Creation Records chiude, è stata la loro casa discografica, e Liam e Noel devono fondarne una loro, la chiamano Big Brother Recordings. Il nome Big Brother è ispirato al ruolo di Noel nella band, è il capo, ma è anche un capo distante dagli altri, soprattutto da Liam, che sembra totalmente fuori controllo. C'è per esempio questo episodio di quel periodo raccontato da un giornalista, vittima occasionale di Liam Gallagher. Ho visto Liam per la prima volta qualche anno fa. L'ho avvicinato fuori dai Q Awards con una foto. In questa foto che gli ho fatto vedere c'era lui che baciava una ragazza in un pub. Io gli ho chiesto cosa stesse succedendo in questa foto e a lui non piacque la domanda. Così mi colpì con un pugno dritto in faccia. Io caddi a terra e mi impaurì abbastanza. Insomma, arriva una cascata di eventi negativi che rende impossibile la sopravvivenza degli Oasis. Nel 99 i fratelli Gallagher sono a un punto di svolta umano e professionale. Liam divorzia dalla moglie, pazzi Kensit, Noel divorzia anche lui, intanto Bonhead, il chitarrista, lascia la band, la lascia anche il bassista, che è vittima di un comprensibilissimo esaurimento nervoso. I due fratelli si trovano da soli, non mettono ancora la parola fine alla storia della band, cercano il colpo d'ala, mettono da parte i loro rancori e provano a compattarsi almeno una volta nella vita per superare il momento critico. Tornano in studio e pubblicano Standing on the Shoulder of Giants, un album magari meno aggressivo, più psichedelico, e dichiarano pubblicamente che la storia degli Oasis andrà avanti ancora, almeno fino alla lite successiva, che avviene qualche mese dopo la pubblicazione dell'album. Ancora una volta siamo in un pub a Ibiza, i due fratelli hanno bevuto, le parole si fanno pesanti, Liam parla male dell'ex moglie di Noel, non la prende bene, la tensione esplode e, come al solito, Noel abbandona il pub. Qualche giorno dopo annuncerà la fine della band. È l'ennesimo addio con retromarcia. Gli affari magari hanno la meglio per un attimo sulle ragioni personali. Gli Oasis tornano in tour, poi a tre date dalla fine a Parigi, un altro litigio che finisce a chitarrate, nel senso colpi di chitarra, e questa volta l'addio è definitivo, almeno fino a oggi. Poche ore dopo lui scrive un comunicato che mette una pietra tombale sulla storia della band. Con un po' di tristezza e grande sollievo vi dico che questa notte lascio gli Oasis. La gente scriverà e dirà quello che vorrà, ma semplicemente non riuscirei a lavorare con Liam un giorno di più. Le mie scuse a tutte le persone che avevano comprato i biglietti per Parigi, Costanza e Milano. È la fine del rapporto personale tra Liam e Noel Gallagher. Li unisce solo il Manchester City, lo vanno a vedere, ma da postazioni separate. Liam gioca a pallone, io ci ho giocato assieme a Liam Gallagher. Devo dire che quando è in campo diventa, non voglio dire uno serio, ma insomma è lontano dal Gallagher che abbiamo raccontato. Ma si sa, nel calcio esplodono altri meccanismi, forse quelli dell'infanzia. Entrambi in questo momento sono fermi sulle loro posizioni, Liam e Noel. Ognuno va per la sua strada, non si incrociano, però fanno delle cose interessanti, ognuno con una sua band. È evidente però che i grandi fan, e io sono tra questi, sperano ancora in una reunion per vederli sul palco assieme, però mi sembra decisamente improbabile. Ci sono veramente dei fantasmi lontani che aleggiano sulla band e sul rapporto tra questi due fratelli. Ci sono persone che hanno volato in alto anche al di là del loro carattere e dei loro rapporti. Ecco, i fratelli Gallagher hanno fatto questo, hanno segnato la storia, ma non sono riusciti a costruire uno straccio di rapporto interpersonale. E però ci rimane la loro musica, e nel caso